Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io sono cattolico, ovviamente quando faccio politica la faccio da laico, cioè io ho giurato sulla Costituzione, non sul Vangelo. Questo ha detto Renzi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, nella puntata registrata di Porta a Porta che andrà in onda questa sera, ma diciamo difeso nuovamente la legge che è passata ieri, quella sulle unioni civili, dicendo io non ho votato sul Vangelo, ho votato sulla Costituzione. E ritornato quindi su questo tema, e ne ha rivendicato anche orgogliosamente diciamo la vittoria, la conquista dopo tanti anni, e ha parlato anche di molte altre cose oggi, veramente in questa puntata in realtà sono uscite molte anticipazioni, fra cui per esempio il fatto di ritornare sulla tensione tra giustizia e magistratura e dire intanto appunto ha espresso moderazione, voglia insomma di ritornare a ricomporre questo rapporto, e poi dicendo anche che questo paese ha bisogno di giustizia e non di giustizialismo, e anche che un avviso di garanzia non è una condanna. Questo evidentemente, almeno dalle anticipazioni, non so se l'ha detto esplicitamente, ma indirizzato a quello, a un fatto piuttosto importante che è successo oggi, cioè l'avviso di garanzia al sindaco 5 Stelle di Parma, Federico Pizzarotti. Di questo parleremo molto, anche perché non è soltanto cronaca giudiziaria, per il momento bisogna vedere appunto come si sviluppa, ma anche molta cronaca politica. Approfondiremo questo argomento inevitabilmente con tutte le polemiche, gli attacchi, qualcuno che l'ha difeso, anche appunto come Renzi ha detto, non è l'avviso di garanzia una condanna. E poi ci occuperemo anche di una grande novità annunciata dal Papa, per ora è un'ipotesi, una proposta, ma potrebbe aprire al diaconato per le donne. Il diaconato è proprio il, diciamo, il gradino prima del sacerdozio, e si potrebbero anche celebrare battesimi, matrimoni, insomma potrebbe essere una grossa novità. Per il momento ha istituito una commissione di studio su questa possibilità, ne parleremo e capiamo anche quali cose potrebbero cambiare. Intanto vi sottopongo un altro argomento di cui ha parlato Renzi in questa puntata di Porta a Porta, annunciato per quanto riguarda le pensioni, che si sta lavorando, il governo sta lavorando, come ha detto già anche nei giorni scorsi, sulla flessibilità in uscita. Dice: per andare in anticipo in pensione si perderà tra l'1 e il 3% dell'assegno della propria pensione, solo per quelli che sono messi male, hanno la pensione bassa e hanno 55 anni puoi togliere l'1%, per gli altri magari puoi arrivare anche al 4%. Voi a queste condizioni scegliereste volentieri di andare in pensione un po' prima? I vostri due canali di interazione qui con Effetto Notte, lo sapete, pagina Facebook di Effetto Notte, se va a sentire lì per voi giorno e notte, oppure il numero per i messaggi e i WhatsApp che è il 349 238 6666. Rinuncereste volentieri tra l'1 e il 4% dell'assegno pensionistico pur di andare in pensione prima? 349 238 6666, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Adesso allacciate le cinture che ci sono un sacco di notizie. L'apertura del Papa Francesco possibilista sull'accesso delle donne al diaconato, potrebbero celebrare battesimi e matrimoni. Parma, il sindaco Pizzarotti indagato per abuso d'ufficio, lui dice sono tranquillo, vado avanti, Fico commenta, se ha sbagliato lasci. Brasile, il Senato dà via libera alla messa sotto accusa per la presidente Rousseff che lancia un appello alla mobilitazione, Temer intanto giura e assume la presidenza ad interim. Unioni civili, Renzi le difende e dice ho giurato sulla Costituzione, non sul Vangelo. Coniugi uccisi a Cagliari, è bloccato il figlio in fuga, Igor Diana rintracciato da polizia e carabinieri nel Sulcis. Terrorismo, cade l'accusa per i 3 fermati a Bari, uno di loro rilasciato, e sempre a Bari arrestate 2 maestre per maltrattamenti ai bimbi. Roma, cariche della polizia con idranti davanti al Campidoglio contro i manifestanti per la casa. Cinema, è il giorno di Bellocchio, con il film di Jodie Foster arrivano Julia Roberts e George Clooney che dice non possiamo permetterci Trump presidente. E per lo sport la 6ª tappa del Giro d'Italia va a Wellens, Dumoulin in rosa. Partiamo quindi da questa nuova apertura, vi dicevo, di Papa Francesco, in linea comunque col suo corso di rinnovamento. Francesco ha annunciato che istituirà una commissione di studio sul diaconato femminile, che vi spiegavo è il primo grado del ministero ecclesiastico, un passo intermedio verso il sacerdozio nella Chiesa primitiva, dice, esisteva ritenendo che le donne diacone, dice, possano essere una possibilità nel presente. Ne parleremo tra poco, perché appunto si tratta di una proposta che potrebbe cambiare diverse cose. E poi l'inchiesta che coinvolge il sindaco di Parma, Federico Federico Pizzarotti, sindaco 5 Stelle, indagato per abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta sulle nomine al Teatro Regio di Parma. Lui si dice tranquillo, ansioso di chiarire, assicura di voler andare avanti, inevitabili, vi dicevo, le polemiche di cui parleremo qua nel corso di Effetto Note. Spostiamoci all'estero, in Brasile, dove il Senato ha dato via libera all'impeachment, alla messa in stato d'accusa, cioè per la presidente Rousseff, che oggi ha tenuto una conferenza stampa sollecitando la mobilitazione popolare. Está encerrada a votação, nós vamos proclamar o resultado. Sim, 55. Il Senato brasiliano ha votato a favore dell'impeachment di Dilma Rousseff, 55 voti contro 22. La prima presidente donna del Brasile lascia la sua carica dopo un anno e quattro mesi dall'inizio del suo secondo mandato. Sospesa per 180 giorni, termine entro il quale dovrà essere processata, Dilma Rousseff sarà sostituita immediatamente dal vicepresidente Michel Temer, suo ex alleato di governo. Temer, in caso di definitiva destituzione della presidente e se non si andrà a elezioni anticipate, completerà il mandato presidenziale il 1 gennaio 2019. È un impeachment fraudolento, un vero golpe, ha dichiarato la Rousseff in conferenza stampa. La lotta contro il golpe è lunga. È una lotta che può essere vencida. La battaglia contro il golpe sarà lunga, ma possiamo vincerla, ha continuato la presidente brasiliana. Le accuse contro Dilma Rousseff si basano sulla presunta irregolarità di alcune manovre fiscali con cui il suo governo avrebbe coperto ampi buchi nel bilancio tra il 2014 e il 2015. Tuttavia, molti senatori hanno spinto per l'impeachment, mossi dal caso Petrobras, il colosso energetico del paese, che ha investito anche l'ex presidente Lula, con Dilma accusata di aver nominato ministro della Casa Civile il suo mentore per garantirgli l'immunità. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora in Francia, a Parigi. Oui, nous faisons confiance à la décentralisation du dialogue social. Oui, nous faisons. Queste sono le parole del primo ministro francese Manuel Valls, intervenuto di fronte all'Assemblea nazionale, al Parlamento francese, dove è stata approvata nel pomeriggio la riforma del lavoro promossa dal Partito Socialista del presidente Hollande. Fuori dal Parlamento, violenti scontri tra i manifestanti contrari alla riforma e la polizia, che ha provocato questi scontri, che hanno provocato un ferito e tre fermati. Tra l'altro, sono scontri che vanno avanti da mesi in Francia contro questa riforma del lavoro. E adesso invece lo scandalo pedofilia in un campo profughi turco visitato da Angela Merkel. Un guardiano del campo profughi di Nisip è accusato di aver violentato 30 bambini siriani. Secondo il giornale turco Birgan, l'uomo, arrestato a settembre, avrebbe pagato somme comprese tra 40 centesimi ed 1,50 euro per abusare delle vittime tra gli 8 e i 12 anni. Dichiaratosi colpevole, l'uomo ha accusato i bambini di averlo provocato. Scoperte le violenze andate avanti per tre mesi, solo 8 famiglie hanno sporto denuncia per timore di essere rimandate in Siria. Le autorità turche hanno preso provvedimenti per evitare il ripetersi di simili episodi e hanno inserito le vittime in un programma di sostegno psicologico. Attualmente sono 14.000 i migranti alloggiati nel campo profughi di Nisip, lo stesso che la cancelliera tedesca Angela Merkel aveva elogiato nella sua ultima visita. Ankara lo aveva scelto perché rappresentava un esempio degli sforzi compiuti nella gestione della crisi migratoria. Giuseppe Luongo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Terrorismo adesso, nessuna misura cautelare per uno dei tre arrestati due giorni fa a Bari, vi ricordate, in quel blitz dei carabinieri. Secondo il suo legale, questo che è stato rilasciato, si tratta di una vicenda ingigantita. Ora che uno dei tre è stato scarcerato, il suo avvocato liquida tutto come svago, solo divertimento e nient'altro, dice. Quei video nell'aeroporto di Bari, quelle foto al Colosseo o al Circo Massimo, letti invece dagli investigatori pugliesi come sopralluoghi di una cellula di presunti terroristi pronta ad entrare in azione. Ma per il giudice delle indagini preliminari, Francesco Agnino, le prove non sono sufficienti ad un'accusa di terrorismo internazionale né ad una carcerazione preventiva, e per questo rimette in libertà Hakim Nasiri, 23enne afghano, quello del selfie col sindaco di Bari e del dito medio davanti al poster di Malala. In 27 pagine il GIP ridimensiona la lettura degli indizi con un'ordinanza che lascia incredula la procura, che preannuncia ricorso. Restano invece in carcere, ma accusati solo di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, gli altri due fermati, Hamazai e Amiad, 20enne pakistano, al quale però nelle stesse ore un altro GIP di Milano, città dove era stato catturato, non convalidava il fermo. E così, ancora una volta, in tema di terrorismo internazionale, più magistrati si ritrovano a dare opposte letture sugli stessi indizi. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla politica italiana. Il giorno dopo l'approvazione della legge delle unioni civili, protestano le opposizioni. Se è una legge giusta, diceva prima Renzi, avete sentito, devi fare quello che pensi che sia giusto fare, ha ribadito Renzi in TV. Ogni volta sui diritti delle coppie dello stesso sesso si è fatta una bella discussione elettorale che non diventava mai legge, adesso in realtà prima si chiacchierava e basta. Così il premier Matteo Renzi a porta sulle unioni civili e boccia anche l'idea dell'opposizione di collegare la legge Cirinnà ad una vendetta sulle riforme costituzionali. Riguardo al suo essere cattolico, Renzi spiega poi che ha giurato sulla Costituzione e non sul Vangelo. C'è poi l'impatto sulla spesa pubblica per le pensioni di reversibilità. Il presidente dell'INPS, Tito Boeri, parla di qualche centinaio di milioni di euro che a suo dire sono sostenibili. Altra coda è l'addio della deputata Michela Marzano al PD perché non è passata la step child adoption. Lascio il PD per una questione di coerenza, come ho cercato di spiegare nella lettera, non è una decisione legata all'opportunità politica, è una decisione morale. Ma i deputati PD scrivono a Marzano di ripensarci mentre il fronte cattolico si organizza per raccogliere le firme per il referendum abrogativo. Forza Italia, Area Popolare, Fratelli d'Italia sono capitanati da Eugenia Roccella, già portavoce del Family Day e autrice della tanto contestata legge 40 sulla procreazione assistita. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Parliamo di Eni adesso con l'annuncio di Descalzi che dice pronto il piano per le energie rinnovabili. Non è un piano mirato a rifarsi un'immagine dopo lo scandalo della Val d'Agri, ma un progetto sul quale Eni lavora da tempo. Lo assicura l'amministratore delegato del colosso petrolifero annunciando nel giorno dell'assemblea annuale dei soci un piano per un'installazione di 420 megawatt di pannelli solari tra Italia ed estero. Eni aumenterà il suo investimento sulle energie rinnovabili di circa 1 miliardo nei prossimi 3 anni tra progetti e ricerca, con l'obiettivo di ridurre la sua impronta carbonica tagliando in 5 anni le emissioni di CO2 del 28%. La nostra risposta non solo puntuale ma anche strategica rispetto al climate change, alla riduzione della componente carbonica e quindi al raggiungimento del mantenimento di una soglia sotto i 2 gradi di aumento della temperatura. Dal canto suo il presidente Emma Marcegaglia assicura che si sta affrontando con serenità la vicenda dell'inchiesta sul centro Oli di Viggiano, consapevole della correttezza dell'operato della società. Tutti gli studi condotti sulla situazione ambientale in Basilicata nelle aree dove opera Eni hanno confermato che non sussistono elementi di preoccupazione. Durante l'assemblea è stato anche affrontato il capitolo sulla cessione della quota di Versalis, la società del colosso petrolifero attiva nella chimica. Rimarremo comunque al 30%, assicura Descalzi. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Passiamo alla cronaca con una notizia di pochi istanti fa. È finita la fuga di Igor Diana, il 28enne di origine russa, figlio adottivo della coppia uccisa in Sardegna, in casa a Settimo San Pietro, in provincia di Cagliari. In un'operazione congiunta di polizia e carabinieri è stato rintracciato in auto sulla provinciale 293 nei pressi di Nuxis, paese del Sulcis. Ora lo stanno portando in questura. Sentiamo invece che cosa è successo a Roma. Sentite, cariche della polizia con gli idranti per sgomberare oggi a Roma, piazza del Campidoglio, dove era in corso nel pomeriggio la manifestazione dei movimenti per la casa. Gli attivisti hanno poi occupato via del Teatro Marcello, mandando in tilt la circolazione della città. A Bari invece due maestre di 53 e 49 anni di una scuola materna pubblica di Bari Santo Spirito sono state poste agli arresti domiciliari dai carabinieri per maltrattamenti ai danni di alunni di 2 anni e mezzo e 3 anni e mezzo. I bambini sarebbero stati schiaffeggiati, strattonati, presi a calci. Poi ci faremo raccontare un po' più nel dettaglio di questa brutta storia collegandoci direttamente con Bari. Qual è invece la società che vale di più al mondo, nel senso di azienda? Google batte Apple. Mountain View è la società che vale più al mondo, strappando a Cupertino lo scettro. Google vale 492 miliardi di dollari, .6. L'ultima volta che Google aveva superato Apple è stato in febbraio, ma Cupertino era riuscita poi a recuperare la testa della classifica, almeno fino a oggi. Salone internazionale del libro di Torino ha inaugurato oggi la sua edizione del rilancio, la più scintillante, come ha detto il direttore editoriale Ernesto Ferrero, aperta dal ministro dei beni delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini, con un nuovo assetto, l'ingresso di nuovi soci nella fondazione come il MIBACT, il MIUR e Intesa San Paolo. Il salone, a cui partecipano oltre 1000 editori, dei quali 70 nuovi, con 1220, guarda al futuro, ai giovani, cui è dedicato, ha spiegato la presidente Giovanna Milella. E poi un lutto nella TV: è morta a 76 anni dopo una lunga malattia Regina Senatore, attrice salernitana che aveva recitato con Vittorio Gassman e con Edoardo De Filippo e che da tempo faceva parte della serie televisiva di Rai 3 Un Posto al Sole. Per quanto riguarda il cinema, oggi secondo giorno del Festival di Cannes, il giorno di Bellocchio con il film fuori concorso Fai dei bei sogni, che rappresenta il lutto infinito per la madre, e poi con Jodie Foster, regista di un thriller, sono arrivati i protagonisti Julia Roberts e George Clooney, il quale dice: non possiamo permetterci Trump presidente. Bene, a questo punto, prima di permetterci di ascoltare la viabilità, vorrei permettervi di guardare i vostri messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666 e sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Renzi, fra le varie dichiarazioni che ha fatto nella puntata registrata di Porta a Porta, che andrà in onda stasera, ha parlato anche di pensioni, ha detto che il governo ci sta lavorando, quindi per ora nulla di definitivo, però ha anticipato: per andare in anticipo in pensione si perderà tra l'1 e il 3%, solo per quelli che però sono messi male, hanno la pensione bassa, hanno 55 anni, puoi togliere l'1%, per gli altri magari puoi arrivare al 4%. Allora quello che vi chiedo: a queste condizioni scegliereste di andare in pensione un po' prima? Dice per esempio questo ascoltatore, Alberto da Cremona: in pensione con queste condizioni subito. Poi Silvana della provincia di Genova: ciao Roberta, benissimo la pensione, prima almeno curiamo i nipotini. Poi dice: troppi maltrattamenti ai vari nidi, chiederei l'ergastolo. Poi parleremo anche di questo, di questo caso di Bari. Cosimo da Pistoia: vedrai che la penale annua per anticipo sul pensionamento verrà recuperata con il blocco dell'aggiornamento dell'indicizzazione del costo della vita. Chi ha avuto prima paga dopo due volte, dice Cosimo. Continuate con i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure i WhatsApp e gli SMS al 349-238-6666. E tra poco cominciamo a entrare nel cuore degli argomenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che vi ricordo tra poco, Roberta Giordano sempre con voi. Arrivano i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire ogni istante senza indugio, oppure i vostri messaggi al 349-238-6666. Oggi vi chiedevo come argomento sul quale interagire le pensioni. Renzi, fra le varie cose che ha anticipato nella puntata di Porta a Porta di questa sera, anche sul lavoro che il governo sta facendo sulla flessibilità in uscita, dicendo: si potrebbe pensare a una riduzione per chi vuole uscire prima tra l'1% e il 3-4%. Seconda anche di quanti anni ha una persona e di quanto è il suo assegno pensionistico. Voi sareste disposti, con questa piccola o grande rinuncia a seconda dei casi, a andare in pensione prima? Luciano dice: secondo me dopo i 40 anni di versamenti una persona può anche decidere. Io personalmente penso che se arrivo alla vecchiaia quello che può preoccuparmi è se non sarò più autosufficiente. Voglio dire, voglio delle strutture idonee, voglio pagare le tasse anche tutta la vita, ma se arriverò a quella condizione pretendo di morire in serenità. Si preoccupa, insomma, Luciano, giustamente, il proprio futuro. Vincenzo: per chi ha avuto la fortuna di aver iniziato a lavorare a 15 anni e da allora lavora sodo con orari non felicissimi, il poter andare in pensione prima potrebbe essere un'idea, non deve essere usato dalle aziende per eliminare forzatamente i lavoratori, obbligando comunque l'assunzione di giovani. Questi i vostri messaggi, continuerò naturalmente a leggere nel corso di Effetto Notte. Tra poco cominciamo con i vari argomenti, a partire da questa grande novità che potrebbe introdurre Papa Francesco. Vi ricordo le notizie, se non avete acceso puntualmente alle 21. Il sindaco di Parma, 5 Stelle, Pizzarotti indagato per le nomine al Teatro Regio. Scontro tra PD e Movimento 5 Stelle. Pizzarotti dice: io tranquillo, è un atto dovuto. Fico, sempre del Movimento, dice: via se ha violato la legge. Il Papa apre alle donne sul diaconato, possibile subito, dice, una nuova storica svolta di Francesco. Commissione di studio al via, ne parleremo a momenti. Unioni Civili, Renzi torna a difendere la legge che ieri è stata approvata dal Senato. Dice: ho giurato sulla carta, non sul Vangelo, mentre il centrodestra punta al referendum abrogativo. Brasile: sia l'impeachment contro la presidente Dilma Rousseff sospesa per 6 mesi. È un vero golpe, dice lei, mobilitatevi per la lotta. E poi scontri con i movimenti per la casa a Roma, davanti al Campidoglio, strada occupata, traffico in tilt, polizia che usa gli idranti. E terrorismo in libertà, 2 dei 3 fermati a Bari e a Milano nell'operazione dei giorni scorsi. E Cannes, che è al secondo giorno con il film di Bellocchio, ma anche quello della regista e attrice Jodie Foster, con i protagonisti Clooney e Julia Roberts. Non so sapete, ci sono quei nomi di attrici che pure se la vedi tutti i giorni te lo dimentichi, così non ci posso fare niente. Adesso invece ricordo bene che argomento importantissimo ora è quello che riguarda questa novità che potrebbe introdurre Papa Francesco, un'ipotesi per il momento: anche le donne potrebbero accedere al diaconato. Il diaconato, vi dicevo prima, è il primo grado dell'ordine sacro, quindi del percorso ecclesiastico seguito dal sacerdozio e poi dall'episcopato, cioè da diventare preti e vescovi. E nelle prime comunità cristiane era aperto anche alle donne, pare. I diaconi possono amministrare alcuni sacramenti, tra cui il battesimo e il matrimonio. In alcuni paesi ci sono intere regioni nelle quali sostituiscono ormai i sacerdoti nella guida delle comunità parrocchiali. Quindi il Papa ha annunciato che istituirà una commissione di studio sul diaconato femminile nella Chiesa primitiva, perché appunto ritiene che oggi nel presente le donne possano fare le diacone. È un'apertura questa prefigurata da Francesco, che avvicinerebbe in qualche modo la Chiesa cattolica a quella anglicana, dove già le donne fanno i preti e i vescovi. Ne parliamo con Marco Politi, che è vaticanista del Fatto Quotidiano e autore del libro Francesco tra i lupi. Buonasera Marco. Buonasera a tutti. Quindi, diciamo, è sempre coerente con tutte queste novità che piano piano sta introducendo Papa Francesco, no? Potrebbe essere effettivamente, cos'è, la prima volta che dalla Chiesa primitiva che viene riproposta sul tavolo questa possibilità? Si profila un balzo in avanti per quello che riguarda il ruolo della donna nella Chiesa. A noi abbiamo adesso solo l'annuncio, ma non c'è dubbio che il Papa costituirà rapidamente una commissione di studio, e che questa commissione, visti i tempi di Papa Francesco, che vuole le cose rapide, nell'arco di un anno dovrebbe arrivare alle sue conclusioni. E però va detto subito che appena eletto il Papa fece un'intervista a Civiltà Cattolica in cui disse chiaramente: le donne devono stare nei posti della Chiesa dove si prendono decisioni e dove si esercita autorità. E quindi, da un lato, oggi lui apre alla possibilità del diaconato femminile, e dall'altro però, sempre parlando con le superiori generali delle suore di tutto il mondo, ha anche detto che è giusto che entrino nei processi decisionali e che anche guidino uffici della curia. Cioè, in questa riforma della curia che si sta preparando, un domani potremmo avere, per esempio, al capo di un consiglio per la famiglia una coppia di sposi, quindi un marito e una moglie, e ad altri uffici anche delle donne semplicemente, direttamente. Però Marco Politi, come qualcuno auspica da tempo, magari che l'ho sottoscritta, diciamo, nel mio piccolo, ma molti altri teologi, eccetera, l'avvicinamento ulteriore alla Chiesa anglicana non sarà possibile, cioè anche per lui il sacerdozio è inaccessibile. Diciamo che lì c'è per ora una porta bloccata da Giovanni Paolo II, Papa che disse che il sacerdozio femminile assolutamente non è possibile. Allora, Francesco è realista e sa che bisogna avvicinarsi per gradi ad un mutamento che in qualche modo tolga alla Chiesa tutto quello che è un maschilismo di millenni, anzi millenario. Già. Perché anche nella tradizione ebraica ci sono solo sacerdoti maschi e mai sacerdotesse, e soltanto adesso nell'ebraismo riformato contemporaneo che abbiamo delle donne rabbino. Quindi noi ci troviamo come osservatori, vediamo che c'è una tradizione millenaria che escludeva le donne dagli uffici sacri, dagli ordini sacri. Però Francesco, che è un realista, con questo passo di aprire alla commissione di studio e di vedere che tipo di diaconato oggi si possa fare, incomincia a incrinare questo muro. E bisogna dire che nell'arco degli ultimi 10 mesi Francesco sta imprimendo un'accelerazione, perché agosto scorso ha deciso per la prima volta dopo 500 anni di rompere col centralismo della curia romana e di dire che i vescovi locali possono in certe condizioni decidere quando è nullo un matrimonio. Questa è una grande novità, senza anche aspettare il doppio giudizio, quindi questo già comincia a semplificare moltissimo la questione di quello che noi chiamiamo gli annullamenti, cioè le dichiarazioni di nullità. Poi il Papa adesso, con il suo documento post-sinodale, praticamente ha aperto la strada alla comunione, ai divorziati risposati dopo un periodo di riflessione, di pentimento e di approfondimento di coscienza. Poi ha deciso che al rito della lavanda dei piedi, lo ha fatto con un decreto speciale, accedono anche le donne, la lavanda dei piedi è aperta sia agli uomini che alle donne. Il Papa lo aveva già fatto, sì, sin dal primo momento. Ha lavato lui i piedi, aveva, no? Aveva Casal di Marmo donne. E poi lo ha rifatto, anzi ha lavato i piedi anche a musulmani, non solo a musulmani e musulmane. Sì. Però adesso, diciamo, lui per esempio ha rotto quella specie di incantesimo, per incantesimo storico, per cui la lavanda dei piedi doveva solo simboleggiare Cristo e i 12 apostoli. I 12 apostoli sono maschi e il discorso è finito. Invece adesso lui vuole che questo gruppo, fra cui ci sono le donne, rappresenti l'umanità e quindi Cristo al servizio dell'umanità. E quindi anche lui comincia a cambiare proprio la cultura di quella che è stata per lungo tempo il modo di vedere della gerarchia cattolica maschilista. Ci pare che la strada sia parecchio aperta. Grazie Marco Politi, lo ricordo, vaticanista del Fatto Quotidiano, autore di Francesco Tra i Lupi. Grazie Marco, buona serata. A questo punto, prima di lasciarci per una breve pausa di ricreazione, volevo ancora dare un occhio ai vostri messaggi sulla possibilità di andare in pensione prima, questo percorso di flessibilità sul quale sta lavorando il governo. Renzi avrebbe annunciato, così, una cosa ancora molto così vaga, che potrebbe essere, per chi va in pensione un po' prima, decurtato l'assegno tra l'1 e il 3-4%. Dice Mauro, ho capito Roberto, il 3%, ma dov'è la fregatura vera? Chiede Mauro. Poi Michi, 41 senza se e senza ma, non so se si riferisca agli anni di contribuzione, di lavoro, insomma. Poi un altro messaggio, pensioni, ci dovrebbe essere un limite minimo dignitoso, incrementi per ogni anno di contributi, un tetto massimo anti-sciacalli. Mentre un altro messaggio al 349-238-6666, riforme pensioni, balle di quell'ipocrita, ha fatto una RAI di governo, è un cialtrone, vabbè, poi, ma si sa che il 4% è per ogni anno, quindi se si va in pensione 5 anni prima si perde il 20%, sbaglio? Questo ancora non è chiarissimo, devo dire, devo rispondere a questa ascoltatrice o ascoltatore, è ancora, diciamo, ci sono annunci vari da parte dell'INPS, da parte del governo, è un po' un rimpallo di messaggi che si mandano vicendevolmente, però ancora è chiaro, ci stanno lavorando. Enrico dice: che cavolo rinuncia a una riduzione definitiva della pensione per un solo anno in anticipo, tanto vale aspettare e prendere quello che ti spetta. Certo, dipende appunto da quanto tempo prima si può andare, anche questo è da definire. Cristiano dice: un ginepraio infelicissimo, frustrante, astioso e credo senza uscita, il preludio di un futuro tragico. E su queste prospettive un po' così funeste ci lasciamo brevemente. 349-238-6666 per i vostri messaggi e per i WhatsApp, oppure pagina Facebook di Effetto Notte, sempre per le vostre riflessioni. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Logisticamente, Modul Block. Scarica l'app Modul Block e vivi l'esperienza in realtà aumentata. Vi presento. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, lo sapete, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi, da qualsiasi parte del mondo stiate ascoltando, perché vedo ogni volta che veramente da ogni latitudine ascoltate Effetto Notte, per avere questo quadro completo della giornata e poi anche per capire un po' meglio certi argomenti che man mano approfondisco con gli ospiti. Tra poco ci sarà il prossimo ospite e il prossimo tema. Intanto invece su l'argomento che vi sottoponevo questa sera per i vostri messaggi, sia attraverso il 349-238-6666, sia attraverso la pagina Facebook di Effetto Notte, vi dicevo, Renzi, tra le varie cose che ha detto in questa puntata registrata di Porta a Porta, oltre a dire sulle unioni civili non ho giurato sul Vangelo ma sulla Costituzione, ha detto anche per esempio sulle pensioni: stiamo lavorando a questo progetto di flessibilità in uscita, quindi la possibilità di uscire un po' prima, con una riduzione dell'assegno pensionistico tra l'1 e il 3-4%, a seconda anche di quanto è questo assegno. E vi chiedo se sareste disponibili voi a lasciare prima il lavoro, andare in pensione con queste condizioni. Per esempio, intanto ringrazio molto questo ascoltatore che parla di Sprite, è molto carino il suo messaggio, dice Gigi da Merano in pensione subito. Oppure quest'altro WhatsApp, io che ho lavorato per 40 anni come metalmeccanico e grazie alla Fornero non bastano più, ci vogliono 42 anni e 9 mesi, se vado prima, vediamo di aprirlo, dice se vado prima perdo tra l'1 e il 4%, ma Renzi a tutti i parlamentari quanto perderanno, per non parlare poi dei vitalizi, c'è solo una parola, che schifo, vergognoso, dice Ludovico da Bari. E poi ancora altri messaggi, Andrea da Bologna, prima ci spostano l'età pensionabile, poi ci chiedono il pizzo per andare in pensione all'età che ci spettava prima dell'esproprio col nome di legge Fornero e così via, insomma. Ah, poi c'è anche un ascoltatore che mi corregge, dice si scrive Nuxis in Sardegna ma si pronuncia Nuxis, è in Italia pure la Sardegna anche se non sembra, però anche i giardini Naxos si dicono Naxos ma sono in Sicilia, quindi dipende, io non conosco Nuxis e ho detto Nuxis, sarà Nuxis quindi in Sardegna, dove è stato ritrovato, secondo appunto le ultime notizie, il figlio della coppia uccisa nei giorni scorsi. A questo proposito vi ricordo per l'appunto i titoli principali. L'apertura del Papa, ne abbiamo appena parlato, Francesco possibilista sull'accesso delle donne al diaconato, potrebbero celebrare battesimi e matrimoni. Parma, il sindaco Pizzarotti indagato per abuso d'ufficio, lui dice sono tranquillo, vado avanti, Fico commenta, si è sbagliato, lasci, ne parleremo a breve. Brasile, il Senato dà via libera alla messa sotto accusa per la presidente Rousseff che lancia un appello alla mobilitazione, intanto Temer giura e assume la presidenza ad interim. Unioni civili, Renzi la difende e dice ho giurato sulla Costituzione, non sul Vangelo. Coniugi uccisi a Cagliari, bloccato il figlio in fuga, Igor Diana rintracciato da polizia e carabinieri nel Sulcis. Terrorismo, cade l'accusa per i 3 fermati a Bari, uno di loro viene rilasciato e sempre a Bari arrestate 2 maestre per maltrattamenti sui bimbi. A Roma cariche della polizia con idranti davanti al Campidoglio contro i manifestanti per la casa e per il cinema il giorno di Bellocchio, e con il film poi di Jodie Foster arrivano Julia Roberts e George Clooney che dice non possiamo permetterci Trump come presidente. Ma andando sulle cose di casa nostra, invece, parliamo del sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, che risulta indagato per abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Parma sulle nomine al Teatro Regio. Insieme al sindaco, eletto, naturalmente vi ricordate, col Movimento 5 Stelle, risulta indagata l'assessora alla cultura Laura Ferraris. La vicenda parte dall'autunno del 2014. Pizzarotti è stato eletto nel 2012 quando viene aperto il bando per la ricognizione esplorativa per l'incarico di direttore generale del Teatro Regio. Arrivano 30 domande valutate da 3 esperti, se non che alla fine la Fondazione Teatro Regio fa sapere che la ricognizione esplorativa si è chiusa senza esito. Alcuni giorni dopo viene annunciata la nomina di Anna Maria Meo, già direttrice organizzativa e amministrativa del Teatro del Carretto di Lucca, diventa direttrice del Teatro Regio e come l'incarico di consulente viene assegnato a Barbara Minghetti, capo del Teatro Sociale di Como. Uno dei candidati esclusi però scrive una lettera e dice attacca il primo cittadino e dice questa soluzione è stata presa in barba a quegli ingenui che pensavano di partecipare a un concorso pulito. Il sindaco Pizzarotti però aveva risposto dicendo che quel bando per la ricognizione esplorativa era di fatto una manifestazione di interesse ma non era un bando vero e proprio. La procura di Parma l'ha pensato diversamente e dice che proprio per quelle nomine si ipotizza il reato di abuso di ufficio. Pizzarotti si dice tranquillo, sentiamolo. Ben disponibili come sempre alla consueta collaborazione con la Procura, chiariremo, sono come dire, molto tranquillo su questo punto. Un atto dovuto, come dire, annunciato dalle notizie che erano arrivate delle inchieste già da qualche mese. Infatti non scenderò nel dibattito, nel chi è più onesto di chi e controbattendo come la politica sta facendo in questi anni, allontanando ancora di più le persone. Quindi parleranno i fatti, che penso che sia la cosa più importante. Inevitabile però lo scatenarsi di polemiche, no? su questo, appunto, la questione morale, immorale, sono tutti uguali, politici, rubiamo tutti, alla fine nessuno li salva, neanche il Movimento 5 Stelle di duri e puri. Per esempio, intanto vabbè, Fico del Movimento 5 Stelle ha detto se davvero ha violato la legge lasci. Poi invece Rosato del PD dice c'è un giustizialismo schizofrenico nel Movimento 5 Stelle, fino a ieri un avviso di garanzia era una condanna, soprattutto se recapitato all'amministratore PD, poi con i guai di Nogarin, sindaco sindaco Movimento 5 Stelle di Livorno, dice, è stato declassato, diventando l'avviso di garanzia una circostanza da valutare caso per caso. E oggi, dice, con Parma, Virginia Raggi, che è la candidata a Roma del Movimento 5 Stelle, dice che è un manganello in mano alla magistratura. Allora sentiamo proprio Virginia Raggi. Quando ci sono illegalità, quando ci sono contrarietà anche a quelli che sono i principi del movimento, è giusto dimettersi e ricominciare da capo. Però attenzione, che gli avvisi di garanzia non vengano utilizzati come dei manganelli, perché ripeto, molto differente è il caso di, faccio per dire, diffamazione rispetto al caso di peculato, rispetto al caso di truffa, rispetto al caso di abuso d'ufficio. Su questo è intervenuto anche Renzi, vi dicevo, dei vari temi che ha trattato in questa puntata di Porta a Porta anticipata da varie agenzie oggi, ha parlato anche di questo, dicendo un avviso di garanzia non è una sentenza di condanna. È intervenuto anche Giachetti, che è il candidato a Roma del PD, candidato sindaco. E lo dico oggi, per esempio, che c'è stato l'avviso di garanzia nei confronti del sindaco Pizzarotti. E non deve essere la magistratura, ma l'opportunità politica e la coscienza di ciascuno di noi a dover decidere se noi dobbiamo andare avanti o no in un incarico pubblico. Perché se noi creiamo un automatismo, in questo caso noi contribuiamo a far sì che il potere della magistratura sia molto più forte rispetto a quello della politica. La politica deve governare se stessa, deve esercitare la sua responsabilità e deve scegliere e decidere a prescindere. E sentiamo anche Giorgia Meloni, sempre su questo caso di Pizzarotti. Non credo che si debba fare campagna elettorale su queste cose, nel merito, diciamo, delle questioni giudiziarie. Certo, c'è da dire che le poche amministrazioni 5 Stelle sono un po' tutte nei guai, il che o è un tema di persecuzione da parte della magistratura o è un tema di incapacità di governo. Che tema è, Francesco Maisano, commentatore politico della Stampa? Ciao Francesco. Ciao. Ciao Roberta, buonasera ai tuoi ascoltatori. No, non saprei dire se il tema è esattamente quello dell'incapacità del Movimento 5 Stelle. In realtà incappare in un avviso di garanzia per abuso d'ufficio quando si tratta di un amministratore locale è una cosa abbastanza frequente. Ci sono tante di queste indagini che poi alcune finiscono archiviate, alcune finiscono poi con un procedimento e si arriva a sentenza per capire se si è assolti o condannati. Io credo che il punto grosso in questo momento sia che ci stiamo avvicinando alle elezioni amministrative, quindi l'argomento, diciamo, locale è più sentito, è più in alto nell'agenda politica e scatena più polemiche, ovviamente, anche perché il Movimento 5 Stelle si è posto sin dall'inizio come il movimento così intransigente verso la possibilità che un amministratore possa essere anche solo sfiorato dall'ipotesi di aver fatto qualcosa di non legale o non corretto circa le norme locali amministrative, quindi diciamo paga anche un pochino quello. Io credo però che il caso di Pizzarotti abbia una sua profondità che va al di là della questione in sé del Teatro Regio, nel senso che Pizzarotti è un sindaco all'interno del Movimento 5 Stelle avversato dallo stesso partito. Infatti ricordiamolo, no, che personaggio è Francesco Maisano, perché lui era stato eletto nel maggio 2012 e il giorno prima, tra l'altro, l'Emilia era stata scossa da un terremoto. Era stato un terremoto, una rivoluzione anche questa sì. Elezione, no, del sindaco, sì, 5 Stelle, tra l'altro in una città, arriva, Parma, che era piena di scandali, a dissesto finanziario, sì, no, si era arrivato la gestione Vignali, che è stata una gestione appunto finita malissimo veramente in modo inglorioso. E Pizzarotti arriva e con la promessa, tra le altre, di bloccare la costruzione, l'accensione dell'inceneritore che allora doveva ancora essere ultimato e poi acceso, e quella promessa viene disattesa ed è il motivo scatenante di una frattura con i vertici del Movimento 5 Stelle, con la Casa dei Già Sociali soprattutto, che gli infacceranno poi nei mesi e negli anni di non aver mantenuto quella promessa elettorale fatta, che tra l'altro era una delle cose che Casa Reggio teneva di più, ragione del suo forte ecologismo. E niente, da quel punto in poi Pizzarotti ha dovuto cercare di barcamenarsi e di capire come ottenere nel 2017 una rielezione. E la cartina di tornasole di questo suo movimento politico parmense, che poi è anche una cosa in chiave nazionale, la vediamo in questo caso. Abbiamo Roberto Fico che lo mette a spalle al muro, gli dice: ok, se hai fatto qualcosa di poco pulito, devi lasciare. E dall'altra parte vediamo che diciamo Di Maio, o comunque l'ala un po' più pragmatica, tace, preferisce non rincarare la dose, tenere basso l'argomento e provare ad andare oltre. Questo perché? Sia perché Luigi Di Maio in questo momento è alla guida del Movimento 5 Stelle, non vuole che l'amministrazione 5 Stelle a Parma cada in alcun modo, venga messa in difficoltà in alcun modo, perché sarebbe un pessimo spot per le elezioni amministrative che abbiamo da 3 settimane. E inoltre c'è la questione stessa parmense, che vede Pizzarotti impegnato a capire se dovrà ricandidarsi col Movimento 5 Stelle o se per provare a tornare a Palazzo Ducale gli toccherà fare una lista civica e magari chiedere l'appoggio più o meno esplicito del Partito Democratico, e lì poi si aprirà tutta un'altra partita. Però diciamo questo momento è intimamente legato alle prossime elezioni amministrative e alle prossime elezioni amministrative di Parma, che saranno l'anno prossimo. Momento strategico. Grazie Francesco Maisano della Stampa. Ciao Francesco. Grazie a voi. Grazie a voi. Buon lavoro. Ciao, grazie a te. Adesso vedo un'agenzia di pochi istanti fa, sempre sul fatto, sull'uccisione dei coniugi di Cagliari. Sapete che cercavano in questi giorni uno dei figli adottivi, è stato trovato nel Sulcis, e l'agenzia di aggiornamento è questa: c'è stato un conflitto a fuoco tra le forze dell'ordine e il 28enne in fuga, Igor Diana, figlio della coppia uccisa in casa Settimo San Pietro vicino Cagliari. Secondo quanto appreso, il giovane, che era armato, avrebbe sparato alla vista di polizia e carabinieri, che hanno reagito a loro volta col fuoco, ferendolo in modo non grave. Igor Diana non è ancora arrivato in questura, probabilmente è stato portato prima in ospedale. Con questa notizia ci prendiamo una breve pausa per aggiornare chi sta viaggiando. Vi ricordo, per le vostre opinioni, 349-238-6666, numero per SMS e WhatsApp, sulle pensioni, sull'andare o no con una riduzione tra l'1 e il 4% dell'assegno, oppure anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Scrivete. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, le notizie adesso in pochi secondi, ve le ricordo. Dice il nostro ascoltatore: è vero che Renzi è nato da un rapporto tra Berlusconi e Vanna Marchi. Poi ancora altri messaggi sulle pensioni: non sarebbe giusto che il Papa fosse cristiano e non qualunquista, forse qualcuno non è d'accordo con la sua apertura, ma ricordo brevemente le notizie, perché abbiamo ancora altre cose. C'è l'apertura del Papa Francesco, possibilista sull'accesso delle donne al diaconato, potrebbero celebrare battesimi e matrimoni. E poi ne abbiamo parlato poco fa di Pizzarotti, sindaco di Parma, Movimento 5 Stelle, indagato per le nomine al Teatro Regio, scontro tra PD e Movimento 5 Stelle. Lui dice: io sono tranquillo, è un atto dovuto, vado avanti. E poi sulle unioni civili, Renzi, che torna a rivendicare questa vittoria, dice: ho giurato sulla carta costituzionale, non sul Vangelo. YouZone, incontro con gli europarlamentari. Nome: Fabio Massimo. Cognome: Castaldo. Età: 30. Nato a Roma. Eletto in Italia centrale, Lazio e Toscana, Umbria e Marche. Con quanti voti? 38.088. Partito politico? Movimento 5 Stelle. Gruppo politico? IFDD. Segni particolari? Codino, pizzetto e battuta pronta. Quante lingue parla? Italiano, inglese, francese, spagnolo e capisco un pizzico il portoghese. Competenze europee in 10 parole. Affari esteri, difesa, cooperazione, commercio internazionale, affari costituzionali, interni e giustizia. Benvenuto nella YouZone di Radio 24 da Silvia Bernardi. Trattato di libero scambio UE-USA-TTIP, favorevole o contrario? Contrarissimo. Perché? Perché temiamo che possa scavalcare completamente la possibilità di avere uno sviluppo armonioso delle relazioni commerciali tra i vari paesi, ma al contrario possa abbattere diritti fondamentali come il principio di precauzione, duramente acquisiti appunto nel tempo della legislazione europea, e perché non vogliamo scatenare una nuova guerra tra poveri, tra i lavoratori dei due continenti. A che punto siamo della trattativa? La trattativa sta andando avanti, ma in questo momento diciamo che ci sono forti resistenze sia da un lato sia dall'altro. Probabilmente potrebbe uscire fuori un testo che non soddisfi né i fautori del libero commercio a qualunque costo né i suoi detrattori. Pertanto probabilmente forse sarebbe meglio accantonare direttamente queste trattative. Status di economia di mercato per la Cina. Quali garanzie per la concorrenza leale? Beh, non ci possono essere garanzie di concorrenza leale con chi non fa concorrenza leale. In questo momento la Cina continua ad avere un chiarissimo dumping economico e sociale, ma anche ambientale nei confronti dell'Europa. Non è possibile in questo momento competere con chi non rispetta le regole. Questo vorrebbe dire mettere a repentaglio 3 milioni di posti di lavoro in Europa e almeno 400.000 in Italia. Noi non lo accettiamo. A chi conviene in Unione Europea che la Cina raggiunga lo status di economia di mercato? Sicuramente conviene ai paesi dell'Europa del Nord, in particolare ai paesi scandinavi, alla Gran Bretagna, che fondano la maggior parte della loro economia sui servizi. Non conviene di sicuro all'Europa manifatturiera, Italia, Francia, Spagna e altri, tra cui appunto in particolare l'Italia. Vorrebbe dire mettere in ginocchio le piccole e medie imprese che sono da sempre la spina dorsale della nostra economia. Cosa salva dell'Europa? Cosa butta? Dell'Europa salvo senz'altro il sogno originario, l'aver posto un termine ai secolari conflitti del continente e l'idea di poter combattere insieme e affrontare insieme le sfide della globalizzazione. Butto invece la deriva completamente orientata alla moneta e che ha accantonato invece il progetto politico e soprattutto ha accantonato la voglia di rafforzare la democraticità dell'Unione e la sua vicinanza ai cittadini. Il Movimento 5 Stelle dopo la morte di Casaleggio. Il Movimento 5 Stelle deve semplicemente proseguire il progetto e proseguire il sogno. Il suo motto? Cambiare il paese per non cambiare paese. U-Zone. Incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. E ora passiamo a questo brutto fatto di cronaca che viene da Bari, dove sono state poste agli arresti domiciliari due maestre di una scuola materna pubblica di Bari Santo Spirito che maltrattavano i bambini tra 2 anni e 3 anni e mezzo. Le indagini sono partite proprio dai genitori di questi bambini, ma ci racconta più nel dettaglio Giovanni Longo, che è giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Buonasera Giovanni. Buonasera, ciao e buonasera a tutti i radioascoltatori. Quindi, sì. Sì, effettivamente una terribile, una brutta storia è emersa grazie all'intuizione di alcuni genitori, uno stato d'animo che non convinceva affatto la mancanza di volontà di parlare di quello che accadeva all'asilo. Non ne voglio parlare, mamma. È un grido. Diciamo che i genitori sono andati un po' più a fondo su questo essere restii ed è stato un gioco, la mamma e la figlia, la mamma ha proposto alla figlia di giocare all'asilo, hanno invertito i ruoli e da quel momento la donna ha capito cosa accadeva in classe, si è confrontata con altre mamme, hanno denunciato tutto ai carabinieri, questo a febbraio, e quindi da queste denunce è emersa l'indagine sfociata negli arresti eseguiti oggi per maltrattamenti di diversa natura, schiaffi, pugni, calci, punizioni, bambini costretti a rimanere in castigo fuori dalla classe oppure in silenzio accanto alla cattedra della maestra. E ha più colpito nel provvedimento restrittivo sono le immagini, perché tutto è stato documentato dalle immagini e dai dialoghi che avvenivano in classe grazie alle telecamere, alle microspie installate all'interno della classe. Quindi in modo inequivocabile, Giovanni Longo, purtroppo bisogna capire, si ripetono un po' questi casi, è chiaro che per fare questi mestieri bisogna essere convinti di avere quella vocazione. Grazie Giovanni Longo della Gazzetta del Mezzogiorno. Grazie. Ciao Giovanni. Grazie a voi. Buona serata. Ci sentiamo alle 22.